GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola. Festival di Sanremo, ci siamo. Così nelle parole di Gianni Morandi. Siamo arrivati all'esame, eh? È come il giorno degli esami che uno non ha tutto confuso in testa, ha tutto. Però ci siamo preparati. Poi soprattutto quest'anno c'è veramente una squadra unita, almeno fino ad oggi lo è stata e penso fino a sabato sarà così. Sarà il festival delle polemiche? No, secondo Morandi sarà il festival della canzone. Allora, si è parlato tanto di tutto, però io nella mia testa ho sempre le canzoni, ho sempre la musica, questo è il festival della canzone. Credo quest'anno così di aver fatto insieme a Mazzi una bella scelta, spero che le canzoni di Sanremo si cantino già da mercoledì mattina. Beh, è chiaro che tutto il contorno, tutto quello che succede, la curiosità dei fotografi, le ragazze che le hanno cercate tutti, la curiosità di vedere in un contesto come il Festival di Sanremo Luca e Paolo, sono tante. Però ricordiamoci che i protagonisti, i nostri grandi ospiti, sono proprio i 14 cantanti della sezione artisti e gli 8 giovani che già abbiamo cominciato a conoscere. Eppure le polemiche fanno parlare. La stampa ha cercato di provocare le due conduttrici sulla manifestazione delle donne di domenica. Non avremmo partecipato, dicono, ma più impacciate che informate. E Belen ha soprattutto tenuto a difendere la sorella, inciampata in qualche intercettazione nel caso Ruby. Prime critiche per i La Cruz e per il loro Io Confesso, in cui cantano «Non credo nel peccato, amore mio, perché non credo in Dio». «Non abbiamo cambiato nulla del loro testo», ha dichiarato Morandi, «perché pensiamo che sia l'espressione libera di un artista che si sentiva di scriverla così». A far parlare anche una delle canzoni più attese, quella in dialetto laghè di Davide Van de Sfros. «Se vogliamo portare il dialetto a Sanremo vuol dire che c'è un'apertura di un'Italia che si vuol conoscere meglio e che si appassiona per le sue differenze, per le sue qualità, per le sue tante sfumature. Se invece tutto quello che va fuori dal piattume ci irrita, ci dà fastidio, ci fa appassire perché dobbiamo pensare o tradurre o leggere, allora andiamo avanti tranquillamente così e poi un domani chiediamoci come mai ci siamo ritrovati lì a guardare il tramonto senza aver visto più niente. Mi sono abituato a essere un viaggiatore, a essere un antropologo che si metteva proprio in gioco direttamente e anche questa volta sono spettatore del sasso lanciato in acqua, dove il sasso sono poi sempre io. Cioè mi lancio in acqua e guardo quanti anelli e che tipo di movimento fa l'onda. Per quanto riguarda il programma della serata, sul palco ci sarà anche lo sport olimpico, con le campionesse azzurre della ginnastica ritmica. Un'altra atleta invece ha detto no alla televisione. Tania Cagnotto non parteciperà alla prossima edizione del programma TV Ballando con le Stelle. Mi sarebbe piaciuto, confessa, ma ho detto no per prepararmi al meglio in vista dell'impegno olimpico del prossimo anno. E per chiudere, il successo di un cantante che proprio da Sanremo ha mosso i primi passi verso la gloria internazionale. Da New York la notizia di 20 minuti di applausi e standing ovation per il debutto di Andrea Bocelli alla Metropolitan Opera House. Tra i 4.000 spettatori c'erano anche Placido Domingo, René Fleming e Angela Gheorghiu. E per il GR Spettacoli da Sanremo è tutto. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.